Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ma perché? Vede che qua c'è un divieto. Pensavo a questo, a quello là. A pensavo. Tutte le ha fatte? Cioè, non pensavo a quello. Ma lei le ha fatte tutte, le ha messe praticamente in divieto. C'è sempre parcheggiato, 3 anni che parcheggiava. In divieto? In divieto, ma qual è il problema? Ma non si fa! Ma a parte che non c'è il divieto. Non si fa! Ho fatto questo errore tecnico, di ingazzatura. Ha un errore tecnico? Di ingazzatura, che capita. Subito ho chiesto scusa. Un'incazzatura momentanea, però subito io mi sono reso conto che ho sbagliato. Era un'incazzatura momentanea. Si è reso subito conto che ha sbagliato. Questa è la voce che ormai è diventata nota, è entrata nel pantheon delle glorificazioni dell'ignominia di questi giorni. È la voce di Antonio Piazza, che è il presidente dell'ALER di Lecco, che è l'agenzia, l'azienda lombarda di edilizia residenziale, che si era urtato perché un disabile ha avvertito i vigili del fatto che lui mettesse la sua Jaguar nel parcheggio predisposto per i disabili. Come questo si è allontanato, ha preso e ha tagliato le gomme dell'auto del disabile, l'ha fatto sotto le telecamere che stanno in quella piazza, quindi l'hanno subito sgamato. E quindi è stato costretto innanzitutto a dimettersi dal suo ruolo, un'importante azienda, l'azienda che poi provvede all'edilizia residenziale, quindi probabilmente anche alle case dei disabili. E ha lasciato questa unica intervista al TG regionale, appunto della sua regione, e poi non si è più sentito. Noi l'abbiamo chiamato ieri, anche ho parlato poco fa con la sua segreteria, gli ho detto se lui vuole parlare questa trasmissione è aperta a lui. Perché? Perché primo ha tutte le possibilità di esprimere e ragionare con noi perché un momento di incazzatura si risolva nel tagliare le gomme a un disabile, che è il gesto per cui oggi la maggior parte dei giornali prendono questa notizia al volo. Io leggo qualche titolo, il posto è mio, il RAS PDL taglia le gomme al disabile, perché l'aspetto sia un politico viene messo in prima linea. La casta ormai è impazzita, buca le gomme disabili. Il politico se la prende col disabile e si giustifica, c'è chi fa peggio. Il mio punto di vista questa mattina è molto chiaro. Questa persona vi ha fatto una cazzata, è più che logico, è più che comprensibile, è più che individuabile, non esiste nessuna giustificazione. Ma che tutti oggi si concentra sul fatto che abbia tagliato le gomme a un disabile, che è un gesto terribile, tagliare le gomme all'auto di un disabile è come tagliare le gambe a una persona che cammina normalmente o che vede normalmente, accecare gli occhi perché non può far più niente, rimane lì bloccato. Gesto clamoroso, terrificante. Ma nessuno riflette sul fatto che in realtà questo signore considerasse un suo diritto mettere comunque sempre la sua automobile nel parcheggio dei disabili. Ma quello non viene considerato come un problema, quello è una colpa veniale di fronte al fatto che gli abbia tagliato le gomme. Il taglio delle gomme scaturisce dal fatto che lui si è sentito offeso in quello che pensava un suo diritto, di mettere la sua macchina tranquillamente nel posto dei disabili. Quindi questa mattina non voglio assolutamente lanciare nessuno strale ulteriore nei confronti del signor Antonio Piazza, che se vuole, ripeto, può senz'altro partecipare a questa trasmissione, ma riflettere sul fatto che è semplicemente l'indicatore di una disattenzione generale nei confronti dei disabili. Io spero questa mattina chiami anche il mio ascoltatore preferito, quello che mi scrisse un SMS la scorsa trasmissione in cui parlavo di problemi analoghi, dicendo: Nicoletti, se tu avessi invece che un figlio disabile una figlia velina, ci parleresti di figa tutto il giorno. Ma mi piacerebbe parlarne, non è che l'argomento lo disprezzi, anzi l'ho in grande attenzione. Però questa mattina parlo di qualcosa che secondo me riguarda tutti noi. La disabilità non è un problema soltanto dei disabili o delle loro famiglie, è qualcosa che ormai deve entrare nel nostro livello di civilizzazione come un impegno comune, come qualcosa che fa parte della nostra vita. Se un signore taglia le gomme perché gli viene negato il diritto di mettere la macchina, come tutti fanno, nel parcheggio dei disabili, significa che qualcosa non funziona. Significa che normalmente le nostre strade tutti sentono in diritto comunque e di vedere occupato anche da loro quello spazio con delle strisce gialle. Le persone che sono più indifese, più deboli, meno possibilitate a usare le città come le usiamo normalmente noi, non devono essere sentite come un peso. Io vedo gli sguardi di fastidio, gli sguardi di sufficienza, quando le persone girano e girano con l'automobile, vedono liberi quei bei parcheggi gialli, quelle belle rampe sui marciapiedi che sembrano fatte apposta per infilarci una Smart, dico mannaggia, per questi rompicoglioni noi non possiamo parcheggiare la macchina e basta, c'è troppa protezione, se ne stiano a casa. È questo l'atteggiamento? 800240024. Franco Bonprezzi, buongiorno. Ciao, sono qua, sì, sono uno dei rompicoglioni. Sì, tu lo sei notevolmente, anche perché te la sei andata a prendere con l'unica volta che una persona pubblica e nota in qualche maniera parla di disabilità, e parlo di Saviano che l'altro giorno nel programma di Fazio ha sollevato un problema che secondo me può averlo fatto per demagogia, perché è un grosso paraculo, no, per una serie no, di ragioni, dai. però devo dire, per onestà l'ha fatto, te lo faccio riascoltare. Sì. Aumentano i soldi per le cene, le campagne elettorali e tutto il resto, e vengono tagliati i fondi per il sociale. Tra l'altro addirittura nelle scuole quest'anno sono state ridotte le ore per l'assistenza agli alunni disabili. Le autorità spesso dicono no, non è vero, non abbiamo ridotto. Sì, certo, ma sono aumentati i costi e quindi anche se il budget è lo stesso, non basta. In realtà non ha fatto notizia questo taglio, non ha creato particolare scandalo, perché sembra riguardare un'umanità a parte, un'umanità che si considera già in qualche modo parassitaria, che dipenda da altri, e quindi silenzio. Si fa fatica a parlare di abilità diverse. Spesso si crede che questa espressione, diversamente abili, sia un modo gentile per dire handicappato. Tutt'altro. Diversamente abile significa esattamente... Allora, Franco Bonprezzi, giornalista a rotelle, come si definisce, blogger su invisibili.corriere.it. Una persona che da anni con divertimento, con veemenza, con spirito di intraprendenza, di andare controcorrente, si occupa di questi problemi. Tu cosa avevi da dire a Saviano? Poi entriamo nel problema del signor Piazza, vediamo come la pensi te. Beh, tu hai preso il pezzo più bello, e io lo dico, che lui è partito benissimo, partendo dai tagli della spesa sociale, facendo notare che i media non se ne sono occupati. Ero lì che mi stavo emozionando, dico guarda, vai, che sei forte, poi fa tutto un pippone sul diversamente abile che io non tollero, cioè mi è fatto scattare una molla che... Beh, parliamo di me... Saviano, mica parliamo di Hemingway. Appunto, bravo, è proprio questo il punto, siccome Saviano fa opinione, è un vero opinion maker, oltre che essere bravo, è chiaro che se tutti dicono, ah ci picchia, Saviano dice diversamente abile, gli piace, quindi è giusto, quindi è vero, quindi li chiamerò anche io diversamente abili, così mi sento anche meglio, perché io che sono normale, che non ho problemi, posso sentirmi a mio agio con loro che hanno scelto di essere diversamente abili, perché alla fine del programma sembra quasi che uno che ha una disabilità sia un fortunato, perché... Eh sì, dicevo, ah che figata, devo andare sulla sedia a rotelle. Hai capito? È questo che mi preoccupa, cioè la disabilità non la si deve mai negare quando c'è, però non è la persona, è qualcosa che è diviso dalla persona. Se no arrivano persone come il signor Piazza e dice guarda tu, oltre ad averci il culo che sei disabile, mi metti anche la macchina qui, quindi ti taglio le ruote. Esatto, guarda, si è creata negli ultimi anni un po', credo, la grandissima battaglia sui falsi invalidi, no? Per cui alla fine si è creata, al di là del fatto giusto di smascherare i truffatori, ma non abbiamo mai parlato per esempio dei medici che hanno autorizzato queste certificazioni di validità, i falsi invalidi li hanno firmati. Però fermiamoci al punto, Franco, perché sennò facciamo una missione vaga sulla disabilità. Noi siamo partiti dall'idea mia che oggi tutti i giornali puntano, chi naturalmente dice che era del PDL, ci tinge più il pane, chi invece... sul fatto che uno della casta ha tagliato le gomme a un disabile, che è un gesto sacrilego, ma nessuno si afferma sul fatto che in realtà questo era abituato a mettere la sua macchina normalmente nel posto del disabile. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te Gianluca. Allora, ha perfettamente ragione Franco, però si allarga troppo il discorso sui falsi invalidi, che sono dei veri delinquenti, no? Torniamo però all'argomento di oggi. Hai ragione. Quella persona da 3 anni che parcheggia lì è come da 3 anni se squarciasse le gomme a quella macchina. Non cambia niente. Hai ragione tu. E ti fa sensazione la notizia, perché si è andati un pochino oltre. Ma se lo fa un secondo, un terzo, un quarto, al quinto già non ci si fa più caso. No, perché capisci, il cattivissimo assolve tutti gli infingardi. Esattamente, esattamente. Però sono 3 anni che quella persona parcheggia lì, e 3 anni che non è che squarcia le gomme, cementa quella macchina su quel posto. Quindi quel disabile, quello che ne ha diritto a quel posto, comunque non si muove. È servito, è sempre in Italia. Questo, perché... questo è il punto che volevo fare. Antonio, buongiorno, un altro ascoltatore. 800 24 00 24. Buongiorno, chiamo da Napoli. Io ho avuto la fortuna di essere un disabile temporaneo. Che significa? Che mi ruppi una gamba e quindi per un periodo guidavo comunque l'auto, però ne potevo usufruire dei parcheggi dei disabili. Cioè le avevano dato il permesso temporaneo? Le avevano dato il permesso, esatto. Poi l'ha restituito? Sì, quello scade, quello si stava una scadenza, quindi... E quindi? Quindi che succedeva? Che dato che molte persone conoscevano la mia macchina, pensavano che io non avessi diritto, e quindi era un posto che non veniva usato, anche perché tenevo un problema per scendere e salire dall'auto. Beh, quindi qual è il problema? Qual è il problema alla fine? Cosa vuol dire? Qual era il problema? Che quel posto, dato che veniva usato anche da altre persone impropriamente, se lo fregavano, insomma. Ah, quindi c'era una corsa, e impropriamente avevano dei contrassegni falsi? No, non ce l'avevano proprio. Ah, la mettevano lì e nessuno diceva niente? Sì, ma tanto nessuno. Quindi lei ha toccato con mano per un periodo della sua vita il fatto che i parcheggi disabili sono zone aperte al pubblico. Grazie, architetto Daniele Orlandi, buongiorno. Daniele Orlandi è un architetto, è esperta in abbattimento barriere, quindi un architetto che fa della sua ragione professionale, lavora anche per Superabile, che è il portale per la disabilità dell'INAIL, di sua ragione professionale lo studio della possibilità delle città di aprirsi anche alle persone con delle difficoltà. Rispetto a questo problema, architetto Orlandi. Beh, io dico che l'accessibilità urbana è un problema che riguarda tutti noi. E non è una cosa facile da raggiungere, mi rendo conto, perché da un lato è un problema culturale che parte dal singolo cittadino, poi c'è un problema della cultura dell'accessibilità che dovrebbe stare all'interno delle istituzioni, cioè di coloro, che, i soggetti che devono... Ecco, lei che conosce la nostra situazione città per città, paese per paese, esiste questa sensibilità generale? Diciamo che nel corso degli ultimi, diciamo, 15 anni possiamo dire che c'è stata un'evoluzione in positivo. Dal 71 in Italia c'è una legge che prevede che gli spazi, gli edifici pubblici tengano conto dell'accessibilità. Poi ci sono stati dei rallentamenti e comunque in questi anni c'è stato un'evoluzione, un progresso. Non viene sempre vista come un prezzo da pagare con un sospiro. Ho preso una telefonata di un imprenditore in treno proprio una settimana fa. Parlava con i suoi addetti, si erano dimenticati di fare delle rampe per i disabili nel loro edificio. E ne parlava come dicessimi non tagliare una gamba. Madonna, ma bisogna farne proprio 4 e non basta farne una. Mannaggia, che problema, ma siete sicuri? Sembrava una cosa come una concessione, un obbligo verso qualcosa che si potrebbe fare anche a me. Non è questo il sentire sbagliato? È questo proprio il problema. Il problema non è solo dell'imprenditore, il problema spesso ce l'abbiamo anche nei tecnici, perché le università non rispondono a questa esigenza, diciamo, su tutto il territorio nazionale. Tu, architetto Orlandi, come ti è venuto in mente di specializzarti in questo, branca dell'architettura così poco praticata? Ho avuto la fortuna di incontrare il mio professore, l'architetto Fabrizio Vescovo, col quale ho cominciato ad occuparmi. Quanti sono quelli come te che progettano e immaginano le loro città utopiche dove il problema di disabilità non è meno sentito, perché è in sé, è fisiologicamente dentro l'idea della progettazione? Ma diciamo che l'Inghilterra è abbastanza avanti in questo campo. E secondo me una chiave della soluzione è quella di una cultura diffusa non solo dell'accessibilità, ma proprio del senso dell'inclusione. Cioè, noi dobbiamo capire che non è solo la persona disabile che va a beneficiare di una soluzione, di una città più accessibile, ma siamo tutti, perché sarà banale, però la rampetta di raccordo del marciapiede la usa pure la mamma col passeggino, la usa il bambino con la bicicletta, quindi è un bene comune. Adesso banalizzo facendo questo esempio, però una città scomoda è un problema anche economico per tutti. Fermiamoci un secondo. Sofia, buongiorno, medico legale. Buongiorno, buongiorno. Premesso che la vicenda che lei ha raccontato è esecrabile da tutti i punti di vista, volevo fare una precisazione. Solo Franti sorriderebbe di questa vicenda, chiaro, non se ne poteva immaginare una peggiore. Certo, certo. Però volevo, ecco, richiamare un pochino la normativa relativa al rilascio dei contrassegni per disabili. Allora, io, essendo medico legale, sono il sanitario preposto al rilascio della certificazione che poi darà luogo proprio alla concessione da parte della STA del contrassegno. È un iter che conosco bene. Ecco. Anche per me, allora, lo contestarono, ho dovuto insistere più volte perché dicevano che un autistico, potendo camminare con le sue gambe, non aveva diritto a questo contrassegno. No, l'autistico, avendo un gravissimo handicap. Lo dica alla sua collega con cui mi sono scontrato tempo fa. Giustamente ha bisogno di essere accompagnato. Diciamo, cammina bene, guardi quanto cammina bene questo ragazzo. Io vorrei farlo vedere un ragazzo quando ha una crisi oppositiva, una crisi epilettica per strada, come lo tiene bene. Soprattutto non è in grado di provvedere a se stesso, quindi deve essere ovviamente accompagnato. Ecco, ditemi, come mai ultimamente il problema vero sembra quello dei falsi permessi? Chi è che gli dà questi falsi permessi? Allora, le spiego. Dunque, la concessione spesso viene rilasciata all'invalido, in senso stretto. Però la normativa prevede che per ogni concessione si possa indicare 3 targhe. Mm. Quindi questo estende il beneficio, anziché a una sola persona, a 4, al gruppo familiare, sostanzialmente. Quindi io, se volessi, in maniera truffaldina, mi potrei vendere gli altri 3 permessi a 3 avvocati, commercialisti, negozianti, che hanno, come spesso mi dicono che accada, che hanno voglia di avere il permesso per accedere ad esempio al centro storico. Non è questo, però bisogna indicare delle targhe. Ecco, bisogna indicare delle targhe. A quel punto la persona che viene identificata con quella targa è a posto. Se l'invalido non è presente fisicamente in macchina, molto spesso l'escamotage è dire: sto andando a prenderlo a casa, sto andando. Però in realtà anche questo è vero, io finita la trasmissione andrò a prendere mio figlio. Sì, però purtroppo le posso assicurare che la gran parte delle vicende vede il disabile a casa, magari confinato a livello domestico oppure allettato, e 4 persone che girano tranquillamente per i centri storici con i permessi. Esatto, questo è il grosso problema. E poi purtroppo ci sono anche delle persone che lo concedono così, in maniera piuttosto liberamente. Se da un lato c'è l'autistico che non ha avuto il diritto a usufruire di questo beneficio, dall'altro ci sono persone che magari così in maniera compiacente, una cosa banale, insomma, concedono questo. Allora, si fermi, dottore, che è interessante, la teniamo ancora come ospite il medico Sofia. Daniele Orlandi, lei vedo che sta prendendo degli appunti. In realtà sì, perché sarebbe meno problematico se la città fosse in realtà accessibile. Certo, per tutti. Perché la città, quando è blindata, è chiusa, non si apre alle diversità delle esigenze. Diventa praticamente in qualche modo. Penso a una città come Roma che è intasata dalle auto blu, e pensare a cui bordo c'hanno i tanti Batman, immagini come si può sentire, adesso non voglio fare il demagogo, un disabile che ha dei problemi. Le persone disabili spesso sono costrette a rimanere in casa, cioè prigioniere, perché magari c'è l'ascensore che non funziona. Nella casa magari non c'è l'ascensore, la persona è diventata disabile in un secondo tempo, deve ancora combattere con il condominio per cercare di adeguare l'alloggio. A cui è stato dato libero accesso a cani e gatti, naturalmente, perché i cagnolini sono carini e i gattini fanno tenerezza. No, il disabile fa schifo. Una volta che esce di casa deve poter muoversi, marciapiedi, attraversamenti pedonali, trasporti, spazi pubblici, cioè un sistema che dovrebbe accoglierlo, perché andiamo all'estero spesso e vediamo tante persone disabili che vanno per strada con le loro carrozzine. Franco Bonprezzi, un minuto prima della chiusura per le notizie della borsa, dal tuo punto di vista rispetto a quanto ha detto il medico legale Sofia e l'architetto Orlandi. Sì, hanno detto tutte cose verissime e reali, e sono uno dei problemi, e si lega a quello che dicevo prima, cioè non c'è fiducia da parte della gente, diciamo non disabile, del corretto utilizzo di questi contrassegni e degli spazi. C'è una grandissima opportunità che abbiamo adesso, che è l'adozione del contrassegno europeo, che è azzurro con il pittogramma bianco, che costringerà tutti i comuni a ritirare i permessi attualmente erogati e finalmente e a stabilire, quindi potrebbe essere un'enorme verifica della correttezza del rilascio. Già questa è un'operazione che potrebbe sfrondare moltissime delle situazioni. Architetto Orlandi, non sei convinta di questo? Perché? No. Pensi che non sarà sufficiente? Ritirano tutti i permessi arancione, no, controllano chi realmente ne ha diritto e danno quello azzurro solamente alle persone che se lo meritano. Però io penso che bisognerebbe proprio poi instillare nei cittadini, a partire dalle scuole elementari, una cultura reale grazie. Dell'inclusione, perché poi fatto il parcheggio, il contrassegno, perché lo dobbiamo far rispettare sempre forzosamente? Perché ci deve essere sempre la paura della multa? Bisogna lasciarlo libero il parcheggio con la rampa, perché è giusto che sia così. 800240024, stiamo parlando questa mattina di disabilità, ma ne parliamo perché c'è stato un episodio di cronaca. Il presidente dell'ALER di Lecco, Antonio Piazza, che ha tagliato le gomme all'auto di un disabile, ma l'ha fatto perché riteneva suo diritto parcheggiare la sua Jaguar, me ne interessa se è la Jaguar o la 500, in quel parcheggio. Da questo abbiamo cominciato a ragionare sulla apertura delle nostre città, dei nostri spazi urbani, anche alle persone che hanno maggiore difficoltà di muoversi. Non entro nel campo se sono più abili, meno abili, o se hanno diverse abilità, o se hanno una grande fortuna del fatto di andare su una sedia a rotelle o avere disabilità di tipo psichico, sensoriale o relazionale, via dicendo. Dico semplicemente, le città in sé dovrebbero essere città accoglienti per chiunque. Se sono accoglienti per chiunque, tanto più saranno accoglienti per chi ha al 100% tutte le proprie facoltà psicofisiche. Mi è arrivato un comunicato stampa di Antonio Piazza, io ho detto, ripeto, ribadisco, se vuole partecipare a questa trasmissione non perché voglia fare lo scoop, le dichiarazioni o altro, così dice la sua, sentiamo la sua voce, vediamo. Il comunicato stampa chiede scusa al mondo intero, dal Padre Eterno in giù, passando per i colleghi del PDL, gli elettori, l'ALER, e si dichiara disponibile per espiare, di mettersi a disposizione per fare il volontario per i disabili, e andrà a fare la minestra per i vecchietti o a pulire i piedi ai poveri. Adesso non so esattamente cosa lo metteranno a fare. Si entrerà con questo assolta la coscienza, ma non è la coscienza, nessuno vuole vendetta. Molti mi scrivono, bisognerebbe spaccargli le rotule, azzopparlo, accecarlo. No, non è questo. Se lui fa così, non è colpa sua, è il fatto che ormai vive in un mondo, in una società, per cui è normale essere così. Anche tutti quei sepolcri imbiancati che vanno a tagliare i nastri, che fanno le donazioni, che fanno venire la lacrimuccia agli occhi quando parlano ai convegni, ma nella loro testa pensano così. Quando sono con la moglie che cercano il parcheggio, dicono, ma guarda tu, sto rompipalle, che devi mettere la macchina qui, un posto tanto bello vorrei metterci. Oppure, come il signore mi aveva scritto, che noia, parli sempre di disabili, ci dobbiamo stare qui a toccare le palle, a sentire, dai, parliamo di qualcosa di allegro. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Premesso che io sono favorevolissimo al fatto che ci siano sempre più posti per i disabili, per agevolarli, mi ricollego alla telefonata di prima, o comunque all'intervento del medico legale sul rilascio. Sofia, ancora in onda. Sofia, c'è ancora? Beh, è diventato il nostro ospite improvvisamente. In un centro storico o comunque in una città, diciamo che è difficile vedere una concentrazione tale come voi la potete vedere, multisilo di un parcheggio dell'aeroporto di Fiumicino al primo piano, dove ci saranno forse un centinaio di posti per disabili. Sono troppi? No, non sono troppi, è che c'è una tale concentrazione di macchine di alta cilindrata, BMW, Audi, SUV. Io non metto in dubbio che ci sia un disabile che possa avere un SUV. E beh, mica per forza deve essere un poveraccio il disabile. No, ci mancherebbe altro, ma che da queste macchine, le assicuro, non scendono persone disabili. Su questo io lo posso garantire. No, lei esprime un sospetto che io da giornalista lo sa, non posso dirlo se non ho prove oggettive, però è vero, casualmente. Una concentrazione di macchine di alta cilindrata, ma io invito chiunque a fare una verifica anche oggi stesso al primo piano del multisilo dell'aeroporto di Fiumicino e verificare che da queste Audi, BMW e SUV scendano dei disabili. Guarda, le posso dire una cosa, una cosa semplicemente. Sì. Questa cosa è tanto entrata ormai nella percezione generale che il detestabile per i ben pensanti film I soliti idioti, che rappresenta le figure paradossali della nostra società, c'è il più pessimo, il peggiore degli umani, che è il signor Di Ceglie, padre di Gianluca, che è uno schifoso, spaccia droga, manda il figlio a prostituirsi, fa le cose peggiori del mondo. Nel film lui viaggia appunto con una super macchina, un Porsche bellissimo, con decappottabile, fantastica, con il contrassegno per disabili, per far capire che è proprio di un certo generone, romano soprattutto, ma forse diffuso anche in altre città d'Italia, di avere questo grande privilegio, avere un contrassegno per disabili, attaccato la propria macchina. Quindi non ho prove oggettive per poter dimostrare e inchiodare quelle persone, però lei ha un margine di realistico sospetto su questo. Lei cosa ne dice, architetto Daniele Orlandi, ricordo, esperta in abbattimento barriere per Superabile, portale del INAIL dedicato alla disabilità? Beh sì, il sospetto viene un po' a tutti guardando queste situazioni, però ecco, non è che poi dobbiamo dire lo fanno tutti, allora lo facciamo pure noi, tanto poi i posti per i disabili non li occupano realmente coloro che ne hanno bisogno. Oltretutto, cioè, le disabilità sono veramente a 360 gradi, e quindi si va dalle persone con problemi fisici che usano la carrozzina oppure non la usano ma hanno problemi motori più lievi, che però hanno maggiormente bisogno di utilizzare la macchina, e alle persone con problemi visivi, che sì, una persona magari che è cieca o ipovedente, dice perché cammina, sì, però ci sono dei problemi oggettivi di mobilità, di orientamento. Quindi... Medico legale Sofia, non voglio farle perdere altro tempo. Rispetto alla telefonata del nostro ultimo ascoltatore, potrebbe rientrare, se volessimo dare corpo al sospetto, al secondo, terzo e quarto contrassegno di un reale disabile, questa esplosione di macchine di grossa cilindrata col contrassegno? Ma guardi, come ripeto, il problema è duplice. C'è una parte, innanzitutto la normativa prevede che il contrassegno venga rilasciato a chi ha una deambulazione sensibilmente ridotta, questo cita la legge. Allora, che va interpretata qui, però, perché... Esattamente, e allora c'è un'interpretazione più restrittiva oppure più generosa, diciamo così. Io credo che il primo elemento... Ma sarebbe meglio, Sofia, avere un maggior dettaglio normativo, perché poi, sa, dipende, è come quando si danno degli esami, col professore cattivo vanno tutti sì. male, a parità di preparazione, col professore buono si passa. Esattamente, se io potessi decidere stabilirei un protocollo più rigido, in maniera tale da agevolare le persone realmente bisognose e non persone magari con una e quindi diciamo che c'è un piccolo c'è un'importante lacuna da colmare. Ci vuole un protocollo, ci dice il medico legale sì. Sofia, che ci ha chiamato sì. che deve essere più dettagliato, non può essere lasciato esatto. all'arbitrio della persona. La sua collega sì. che mi ricordo per me dice, sa, già ci hanno fatto tante storie perché era successo un fattaccio, quindi ci stiamo più attenti. Questa era la risposta. Se fossi andato un anno prima magari non avrebbe avuto problemi. Non può essere lasciato alla circostanza occasionale o alla sensibilità. Deve essere preciso, molto chiaro. Gian Piero, buongiorno. Sì, buongiorno. Senza arrivare, io sono un insegnante di scuola guida e quando faccio i corsi di recupero punti per quelli che perdono i punti per la patente, normalmente tra gli allievi ci sono persone che senza aver tagliato le gomme all'handicappato però hanno usato il loro parcheggio. Quando chiedi loro: ma perché ti sei messo lì? Perché hai usato quello spazio sapendo che è vietato, che è riservato ad una persona, come si dice, diversamente abile? Dice: ma sì, ma ci sono stati 5 minuti, il tempo a bere un caffè, il tempo di andare a comprare le sigarette. Ma questo non è vero, perché loro usano gli spazi perché, come dicevate prima, non c'è una cultura del rispetto degli altri, ma anche il semplice rispetto dei divieti. Cioè, diciamo, è come dire, vabbè, dai, in questo momento, che sarà mai? Questo è il problema. Che sarà mai? Tanto non c'era nessuno, mi ci metto io, tanto ci sto poco. Quanti punti alla patente, quanti punti alla patente vengono tolti? Per troppi pochi. Quanti? Due punti. Gli tolgono l'infrazione passa, sono due punti. Il parcheggiare sulla cioè spazio. Meno di quanti se io parcheggio nel posto dove ferma l'autobus, per dirle, è uguale, due punti lo stesso, quindi non c'è un aggravante, è la stessa cosa. Non come c'è un aggravante, lì bisognerebbe dargli prende più punti quello che giustamente è al telefono, per dire, o che non ha la cintura, a quello per quei è molto chiaro, questo è chiaro. Cosa ne dice Daniele Orlandi? sui punti patente, questo dovrebbe essere un deterrente. Sì, un deterrente, come no? Solo che avvicinati al secondo microfono. Me io ribalterei sempre, cioè io un'altra filosofia, cioè la mia filosofia è che non bisogna, diciamo, ottenere questo risultato di attraverso con le pene, le pene, le repressioni. Ci vuole un lento, progressivo, costante coinvolgimento delle persone, consapevolezza, aumento della consapevolezza verso questi temi. Franco, tu cosa ne dici di questo ultimo punto di vista? Il fatto dei punti patente e che il deterrente, sì, è giusto il deterrente, ma bisognerebbe far capire un po' prima, a priori. Allora, se io passo il confine, vado in Svizzera, a 50 km da Milano, trovo i posti per disabili regolarmente liberi. Punto. Questo è il punto, c'è una cultura completamente diversa, le regole saranno più o meno le stesse e quindi il problema è quello che si è detto all'inizio, in Italia si è comunque un paese di furbi che pensano di poter aggirare le regole perché tanto non succede niente. La questione dei due punti, la gran parte degli automobilisti non la sa neppure, poi si ritrova la patente decurtata e allora a quel punto se ne accorge. Basterebbe infatti mettere anche nei cartelli di divieto di sosta negli spazi per disabili le pene alle quali si va incontro, cioè ci sono anche delle forme di comunicazione. Questo è giusto, questo è giusto. Bisognerebbe scriverlo, da tante parti c'è scritto comporta il certo. Decurtamento di tanti punti. Questa sarebbe una regola interessante. Invece noi puntiamo sul pietismo anche lì e dire se vuoi questo posto prendi il mio handicap, ma no, tu mi devi lasciare il posto libero perché è giusto e non perché tu non sei disabile, io lo sono, è tutto qua, cioè noi mettiamo sempre. Oddio, tutto si potesse passare come quando passa una suora che uno tocca l'altro, sarebbe comodo e divertente per tutti. Signor Antonio Piazza, ci ha dato una grande occasione di riflettere e anche riflettere su piccole cose, correttivi minimi, non cambieranno la vita, però il fatto che oggi abbiamo comunicato al mondo, che pochi lo sapevano, che costa due punti sulla patente parcheggiare sul parcheggio di disabili e che non sarebbe male se qualcuno che ci ascolta prendesse a cuore questa iniziativa, segnare sulla palina se tu ti metti qua e non ne hai diritto perdi due punti alla patente come è scritto in altre parti, questo magari sarebbe un deterrente. Vogliamo andare avanti a deterrenti come stiamo dicendo, sarebbe bello come ci ha detto Franco Bonprezzi, il giornalista a rotelle, andare come in Svizzera, sempre il paese dei paradisi in tutti i sensi, che nessuno si pone nemmeno il problema che qualcuno possa parcheggiare impropriamente su un parcheggio disabili. Paolo, buongiorno. Buongiorno, io telefono da Trento e volevo dire che mi autodenuncio e anche mi assolvo. Io tutte le volte che trovo un'auto parcheggiata sul posto dei disabili senza contrassegno storgo sempre il taglio di cristallo. Vabbè, ma non è bello questo? È bellissimo perché io odio soprattutto questi furbi. Robin Hood dei disabili. Esatto, è un certo sistema. O la capiscono così o la capiscono così. Vabbè, sì. E non mi pento. E non ho neanche 20 anni, non è così, un ragazzo di 20 anni. È una sorta di vendicatore mascherato di disabili. Esatto. Storce il taglio di cristallo. Alla luce del sole, proprio mentre mi guardano anche. Ah, li alzo o li storce? Scusi, li alzo o li storce? Li storgo. Ah no, li rompe, no, che li alza, li proprio fa un danno, un danneggiatore. Certo. Alzarli che ci vuole. Una cosa lieve perché vale con 5-10 euro lo cambiano. Potrei anche rigare la macchina, ma mi sembra troppo. No, guardi, stia attento, non la vada avanti, sennò come spesso accade ci chiedono i suoi dati e l'arrestano, la denunciano, la mettono sì, alla gogna. Ha voglia. Lei sarebbe pronto a immolarsi come vittima di questo gesto impugnandone la realtà rivoluzionaria? Sì, ma tanto lo sanno tutti dove chi mi conosce. Qua in Trentino è rarissimo che trovi parcheggi occupati, ma quando vado al mare, quando vado in giro, quando esco, proprio no, è più forte di me. Cioè come il vendicatore della notte, cioè il giustiziere della notte, lei esce la notte e dice come giustiziere della... lei esce la notte con la sua 44 Magnum e va a storcere tergicristallo. Anche questo è un punto di vista. Enzo, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì, chiamo da Napoli. Vorrei portare una mia testimonianza. Io sono un papà di due bambini disabili e succede spesso, quasi sempre, quando si va a cercare parcheggio troviamo sempre occupato da auto senza tagliandino per disabili, e a volte mi capita di parcheggiare obbligatoriamente sulle strisce blu. Al ritorno io mi trovo con la multa sul parabrezza. No, scusi, se lei ha il contrassegno non le fanno nessuna multa. No, invece mi dicono che è stata fatta una nuova legge dove chi ha l'auto con il contrassegno non può sostare sulle strisce blu. Dipenderà dai regolamenti del comune. A Roma con il contrassegno si può sostare sulle strisce blu? No, io ho pagato già due multe nel mio del comune perché ho parcheggiato col contrassegno sulle strisce blu. Franco Bonprezzi, tu ne sai niente di questa legge, visto che dipende dal comune, non dipende è una dal comune, norma di legge, ogni comune decide come vuole. A Milano non si paga, a Napoli si paga. Però non è comunale, questo è il fatto. Cioè, No, questa è una norma comunale sulla gratuità. Si può parcheggiare col contrassegno sulle strisce blu. In alcuni comuni è gratis, in altri comuni si paga, deve dirlo al suo sindaco. Come facciamo noi a sapere quali guardi, a me quando mi ha detto il contrassegno dice conviene telefonare al comando dei vigili e dire nel vostro comune posso parcheggiare, se uno vuole essere proprio tranquillo. Comunque il sindaco di Napoli, no, il fatto non è questo, è che al ritorno io vedo la mia auto contravvenzionata e l'altra che sta ancora lì sul parcheggio disabile senza scontrino, senza multa. Questo me ne rendo questo conto, spero ci abbia ascoltato qualcuno il comune di Napoli, e se vuole dare risposta a questa domanda il nostro ascoltatore, siamo qui per accogliere. Luca. Sì, buongiorno. Volevo semplicemente portare la mia testimonianza, pur non essendo né disabile né avendo parenti disabili. Io vivo a Udine, in una strada privata, e in una zona con tanti parcheggi, purtroppo molto frequentata perché c'è l'università e c'è l'ospedale, c'è un grosso parcheggio a 200 metri, nonostante questo, e all'ingresso della via ci sono tutti i cartelli di divieto d'accesso, passo carraio, la gente regolarmente entra dentro nella via, parcheggia bloccando addirittura i portoni di uscita, e dicono che non c'è, una volta mi hanno risposto, ma non c'è il passo carraio, quindi non ho bloccato niente. Proprio manca il rispetto e la cultura del rispetto verso gli altri e verso la legge. Ormai è... Non è esattamente, io non vorrei banalizzare il suo problema, però non è esattamente la stessa cosa se le parcheggio davanti a un portone, se non c'è segnato che ci sia il passo carraio e non c'è il regolare contrassegno. Compiono comunque un parcheggio abusivo, ma non può, secondo me, lei lamentarsi. Daniela Orlandi, vediamo di riportare il punto su quelle che sono le normative. Non basta attrezzare le città con delle aree previste per i disabili, ma è un lavoro lungo, c'è anche un lavoro di manutenzione, di mantenimento. Sì. Certo, il problema è anche questo. Allora, intanto dicevo che la disabilità è a 360 gradi, quindi le esigenze sono estremamente diverse. Quindi anche progettare uno spazio di città tenendo conto di esigenze delle persone non vedenti, le persone con problemi uditivi, perché ci sono anche queste che spesso vengono trascurate, con problematiche fisiche, con problematiche cognitive. Ecco, bisognerebbe mettersi tutti intorno a un tavolo ogni volta che c'è un progetto, condividerlo. Non esiste un luogo istituzionale in cui tutti si mettono attorno a un tavolo, no? Ci sono delle realtà che però sono frammentate, non c'è a livello, diciamo, di grandi realtà urbane un tavolo di coordinamento. Tu hai detto, non c'è una coscienza nazionale con una sensibilità, una cultura adeguata a quello che sia il problema. Non basta, Michele, buongiorno. Sorry. Michele. Pronto? Eccomi. Buongiorno, io chiamo da Verona. Volevo portare la mia testimonianza riguardo delle sanzioni in caso di parcheggi nei posti riservati ai disabili. Premesso che io non ho mai parcheggiato in quei posti, una volta negli Stati Uniti... Esattamente dove? Ero a Miami. Sì. E la macchina era interessata a me, ma erano due macchine che la scambiavamo con il mio amico. Lui deve aver parcheggiato in un posto riservato ai disabili. E tornato dalla vacanza mi è arrivata la multa dalla polizia di Miami, regolarmente pagata, ma se non ricordo male, ma posso verificare perché ce l'ho a casa, c'era scritto sotto che se avessi preso un'altra multa per lo stesso reato io non avrei più messo piedi negli Stati Uniti. Alla faccia di Miami Vice, ha visto? Non è che... Ecco. Franco Bonprezzi, due... maniere, mi sembra, antitetiche concepire il problema. Ci dice l'architetto Orlandi che in realtà in Italia, per quanto si dica e per quanto nelle occasioni propizie agli incontri elettorali se ne parli tanto, ma non c'è una coscienza generale tecnicamente attrezzata con questo problema. Negli Stati Uniti se lo fai due volte ti ingabbiano, cioè sì, non metti più piede in quel posto. Sì, io credo che siano entrambi giusti gli approcci. Ci vuole sia più cultura, allora più comunicazione. Ad esempio il tuo programma, abbi pazienza, è stato utilissimo. Chissà quante persone oggi ci riflettono un po' di più. Magari oggi si scopre che molte meno persone parcheggiano abusivamente nei posti per disabili. Ma non è che ci voleva poi tanto, bastava rifletterci un attimo sopra, quindi non ci vogliamo attribuire maggiori meriti di quelli che abbiamo. Grazie Franco Bonprezzi, grazie architetto Orlandi, grazie a quanto partecipato, oltretutto Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti in regia. A domani.